Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Razzista! Razzista! Sono le mie parole. Prendi e me lo fate in peso, sono spesso io. Quello del razzista lo dà a sua sorella, se ce l'ha la sorella. A sua sorella, ok? E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era, come avete riconosciuto sicuramente, Salvini, che era in giro per le strade di Roma. Qualcuno lo ha accusato di essere razzista e questa è la risposta che lui ha dato. Io direi che, al di là degli insulti che si possono ricevere, uno risponde naturalmente, qualche volta diciamo anche a tuo fratello, perché è sempre a tua sorella. Anche questo è razzismo, possiamo dire. Qualche volta variamo per par condicio. Stasera parleremo di un sacco di cose, quindi qualcuno ogni tanto mi dice: ma perché vai così veloce, ti mangi le parole? Cercherò di essere abbastanza rilassata, ma vi dico già da subito che abbiamo tantissimo cose di cui parlare, un sacco di argomenti. Partirò da questa sentenza shock, come è stata definita in Norvegia, e poi vi chiederò anche una riflessione su questo. Parleremo di pensioni con le proposte che si susseguono in questi giorni, anche gli allarmi. Finiremo di andare in pensione verso i 90 anni? Ce la faremo, oppure una chimera che mai si realizzerà? No, siamo tranquilli, poi ne parleremo, cercheremo di fare un po' di chiarezza e ci occuperemo anche dell'emergenza immigrazione, anche su questo aspetto fervono proposte. E poi ci occuperemo anche dell'antitrust che ha nel mirino Google, perché lo scoprirete naturalmente seguendo Effetto Notte. E poi c'è tutta la Serie A, tranne la partita di ieri, Napoli-Bologna, che abbiamo già seguito. Quindi mi raccomando, non perdete un solo istante di Effetto Notte e avvisate parenti, amici, conoscenti, amori, eccetera. Non siate egoisti, fate ascoltare a tutti Effetto Notte. E vi dico la riflessione che vi chiedo questa sera, e potete poi scrivere le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure come messaggio WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. A proposito di questa sentenza del Tribunale norvegese che ha stabilito che i diritti umani di Anders Breivik, vi ricordate l'autore delle stragi di Utøya e Oslo il 22 luglio 2015, dove uccise 77 persone, di cui la metà adolescenti, sono stati, dice il tribunale, i suoi diritti sono stati violati in carcere per i 5 anni di isolamento. Ecco, che riflessioni vi suscita questa sentenza? Che si tratta di una grave ingiustizia, oppure che il sistema giudiziario norvegese è un sistema avanzato e rigoroso? O che altra riflessione? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Come sempre, adesso vi riassumo i fatti più importanti. Norvegia, Breivik, l'autore delle stragi del 2011 a Utøya, dove morirono 77 persone, per lo più adolescenti, vince la causa contro lo Stato norvegese per violazione dei diritti umani in carcere. Referendum costituzionale sulle firme, il PD è diviso, Renzi dal Messico commenta, c'è chi si oppone a tutto. Pensioni, è pronto l'invio di 150.000 buste arancioni con la simulazione della pensione futura. I sindacati al governo dicono basta annunci, oggi metalmeccanici in piazza. Elezioni amministrative, a Roma Bertolaso verso il ritiro e Berlusconi è pronto a convergere su Meloni. Le primarie negli Stati Uniti, New York incorona Hillary e Trump, i riflettori si spostano sul voto in Pennsylvania, il 26 aprile può essere decisivo. Morti in corsia, l'infermiera di Piombino torna in libertà dopo 21 giorni di carcere. L'antitrust europeo contro Google per abuso con Android impone le sue app, ma Mountain View dice pronti a collaborare. Calcio, ultimo turno infrasettimanale di Serie A, la Juventus ospita la Lazio. Partiamo quindi da questa notizia che, vi dicevo, arriva dalla Norvegia. Anders Breivik, l'autore della strage di Utøya e di Oslo del 2011, dove morirono 77 persone, più della metà tra i 14 e i 17 anni, ha vinto la causa intentata contro lo Stato norvegese per essere stato trattato, secondo il suo legale, in modo inumano nelle carceri norvegesi. Una corte distrettuale di Oslo ha concluso che le condizioni carcerarie che sono state riservate costituiscono un trattamento inumano. La corte rileva che l'estremista di destra è stato tenuto in isolamento per quasi 5 anni dei 21 che deve scontare. Ne parleremo, vi dicevo, tra poco con un esperto di diritti umani. Voi esprimete le vostre riflessioni, la vostra opinione su questa sentenza, dal vostro punto di vista naturalmente. Siamo intanto alla politica italiana, con il referendum costituzionale in primo piano. Sono state depositate le firme in Cassazione, senza quelle però della minoranza PD. C'è una parte che si oppone a tutto, commenta Renzi, atterrato in Messico. Una riforma costituzionale che credo otterrà il consenso dei cittadini, perché va nell'interesse dei cittadini. Se qualche politico, anche del mio partito, ha cambiato idea sul referendum o sulla riforma, ce ne faremo una ragione e continueremo a lavorare perché penso che dopo 30 anni di chiacchiere sia arrivato il momento di fare le cose. Quello che deve essere certo è che noi non ci fermiamo, se loro cambiano idea, noi comunque andiamo avanti. E dopo la conferma della fiducia al governo Renzi, oggi 5 Stelle sono stati dal Capo dello Stato. Il mio parametro è la Costituzione, ha risposto così il Presidente della Repubblica Mattarella, Nunzia Catalfo e Michele Dell'Orco, i capigruppo del Movimento 5 Stelle, ricevuti in mattinata al Quirinale. C'è una nuova maggioranza, hanno detto i pentastellati al Capo dello Stato, che ormai include anche i verdignani, prima di Forza Italia. Sono maggioranza aggiuntiva ma non sostitutiva, ha risposto Mattarella aggiungendo, se lo dovessero divenire, interverrei. Sul tavolo anche altri temi, la capogruppo 5 Stelle al Senato, Nunzia Catalfo. Abbiamo parlato anche di un problema che affligge l'Italia, che è la decretazione d'urgenza. Lui ha condiviso con noi le nostre preoccupazioni e il fatto che il Parlamento non ha più potere legislativo e che quindi anche questo è un suo cruccio. Intanto, per attivare la procedura di referendum popolare, i 5 Stelle, insieme a SEL, Lega e Forza Italia, hanno depositato in Cassazione 103 firme dei senatori che non condividono la riforma costituzionale, ben oltre le 65 richieste. A seguire sono stati i gruppi di maggioranza alla Camera a consegnare le firme per richiedere la consultazione popolare sul DDL Boschi. La gran parte della minoranza PD alla Camera, compresi Bersani, Speranza e Cuperlo, non ha però firmato la richiesta perché, spiegano i Dem, per galateo istituzionale sono le opposizioni a chiedere il referendum su una riforma. Se lo fa la maggioranza, ha il sapore di chi si fa la legge e poi vuole il plebiscito, rischio che noi vogliamo evitare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda le elezioni amministrative del 5 giugno a Roma, Bertolaso starebbe andando verso il ritiro. Berlusconi sarebbe quindi pronto a convergere su Giorgia Meloni. D'obbligo il condizionale, perché sembra che però le trattative, seppur in quella direzione, siano ancora in alto mare. E allora, dalle prossime elezioni italiane a quelle che si stanno svolgendo, le primarie in vista delle presidenziali negli Stati Uniti, New York, che abbiamo seguito ieri, in corona quindi Hillary e Trump, i riflettori si spostano adesso sul voto in Pennsylvania il 26 aprile prossimo e potrebbe essere il voto decisivo. Tornando in Italia, parliamo di pensioni, è pronto l'invio di 150.000 buste arancioni da parte dell'INPS con la simulazione della pensione futura. I sindacati al governo dicono basta annunci, quindi poi cercheremo di capire qui effetto notte e di fare un po' di chiarezza, insomma, sulle varie proposte e anche sugli allarmi di questi giorni. Borse positive in attesa domani della riunione della Banca Centrale Europea. Piazza Affari che ha chiuso più 1,14%, le banche aspettano il sì della Consob all'aumento della popolare Vicenza garantito da Atlante. E sul fondo per la prima volta si è espressa anche Bruxelles. Non penso che il governo italiano faccia scelte per aggirare le regole sugli aiuti di Stato. Credo stiano cercando il modo migliore per far funzionare il loro sistema bancario. La commissaria all'antitrust europeo, Margrethe Vestager, parla di Atlante, il fondo che garantirà gli aumenti di capitale delle banche e l'acquisto dei crediti deteriorati. Ne parla anche se l'avallo di Bruxelles non serve. Nato sotto la regia di Tesoro e Banca Italia, il veicolo è alimentato da soggetti per lo più privati, banche, assicurazioni, curazioni, fondazioni. Critiche arrivano però dal Financial Times sulle dimensioni, 4-6 miliardi sono pochi, e sullo slittamento in Italia del decreto che deve ridurre i tempi di recupero dei crediti. Plaudono invece i banchieri italiani. È servito a ridare fiducia, dice Saviotti del Banco Popolare. È la risposta che il mercato aspettava, commenta Ghizzoni di Unicredit, che Atlante sostituirà nel supportare l'aumento della popolare Vicenza. In tutto 1,7 miliardi finalizzati alla quotazione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche dell'emergenza migranti, attesa per domani mattina al porto di Augusta la nave cargo che ha soccorso 235 persone nel canale di Sicilia. Intanto arrivano le conferme su quel naufragio nel Mediterraneo di cui si parla da lunedì, relativo a centinaia di persone, ce ne occuperemo poi più tardi. Siamo alla cronaca italiana adesso, con il colpo di scena relativo al caso dell'infermiera di Piombino. Ha già lasciato il carcere, il tempo di una telefonata al marito e che il figlio arrivasse in auto per portarla a casa. Accusata di 13 morte sospette all'ospedale di Piombino, il Tribunale del Riesame di Firenze ha deciso invece di scarcerarla. Fausta Bonino, in carcere dal 31 marzo scorso, si era dichiarata innocente. Ora l'ordinanza d'arresto è stata annullata. Ancora non si conoscono i termini della decisione, che è però già operativa. Da lei e dal figlio neanche una parola, giusto il tempo che si aprissero le porte del carcere Don Bosco di Pisa, è uscita a passo svelto ed è salita in auto diretta a casa. Solo ieri, in regione toscana, erano stati diffusi i primi risultati della commissione d'indagine sull'ospedale di Piombino, nel reparto di anestesia e rianimazione. Dove sono avvenute le 13 morti, esistevano criticità sotto il profilo organizzativo e della gestione del rischio clinico, si legge nel documento. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi adesso parliamo sempre per la cronaca di un tentato femminicidio. Un uomo di 44 anni ha aggredito la convivente con un martello, ferendola gravemente alla testa, poi si è tolto la vita gettandosi da un ponte a Briosco, in provincia di Monza. L'aggressione, a quanto si apprende, è avvenuta intorno alle 18 a casa della coppia. L'uomo, dopo aver lasciato la sua compagna di 39 anni in fin di vita in casa, ha guidato fino a Carate Brianza, dove poi si è tolto la vita. Avevano due bambini di 8 e 2 anni. In questo caso invece un altro fatto, un femminicidio riuscito, sembrerebbe: una donna di 50 anni italiana è stata uccisa a colpi di pistola all'interno di un bar alla periferia di Roma questa sera. È arrivata la chiamata alla polizia che segnalava spari nel locale in via di Lunghezza. La donna è deceduta poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, anche lui italiano di 50 anni, le ha sparato, poi è fuggito. Gli agenti lo hanno raggiunto e arrestato e adesso stanno indagando. Torniamo sullo sversamento di petrolio a Genova. Proseguono senza sosta i lavori per la bonifica del rio Fegino e del torrente Polcevera, dove domenica sera si sono riversati centinaia di migliaia di litri di greggio a seguito di una rottura di una tubazione che collegava il porto petrolio alla raffineria della Iplom. La capitaneria di porto comunque tranquillizza gli ambientalisti, spiega come le istituzioni competenti stiano lavorando ininterrottamente. Allora sentiamo Giovanni Calvelli, capitano di fregata della capitaneria di porto, intervistato da Edoardo Sirignano. Quindi parliamo di circa 2.000-2.500 metri quadrati di iridescenza suddivisa in varie chiazze, non continua, sul quale sta intervenendo proprio in questo momento un battello ecologico dotato di attrezzatura per il recupero del film d'olio che galleggia sull'acqua. L'evoluzione che ci viene anche dai modelli matematici fornitici dall'ARPAL ci induce a ritenere che la chiazza tanto viene aggredita con questo battello e comunque non dovrebbe andare a spiaggiarsi, ma spandersi verso ponente e mantenersi a largo. Tra le vittime del petrolio ci sono anche uccelli. Le immagini che sono circolate, che sono apparse anche su alcuni organi di stampa, ritraggono un gabbiano, uno o due esemplari di gabbiano di Sula, che stazionano a volte nella foce del torrente Polcevera, ma il fenomeno penso che sia limitato a questi unici casi. Parliamo anche di libertà di informazione, perché l'Italia frena la caduta libera dell'anno scorso, quando crollò di 24 posti nella classifica della libertà di stampa stilata annualmente da Reporters Sans Frontières, ma arretra ancora di 4 posizioni. Ora è al 77° posto su 180 paesi, sotto accusa mafia, criminalità, minacce di morte ai giornalisti e procedimenti giudiziari per gli autori di inchieste, come nel caso dello scandalo VatiLeaks. Finlandia, Olanda e Norvegia invece rappresentano il podio di questa classifica, che Reporters Sans Frontières stila dal 2002. Agli ultimi 3 posti si confermano Turkmenistan, Corea del Nord e, fanalino di coda, l'Eritrea. E anche questa notizia è una svolta negli Stati Uniti: la prima donna su una banconota, quella da $20, ci sarà il volto di Harriet Tubman, che lottò contro la schiavitù, era una militante abolizionista che, dopo aver ottenuto la libertà, aiutò centinaia di schiavi a conquistarla. Vediamo invece chi si conquista la partita questa sera tra Juventus e Lazio e anche tutte le altre di Serie A con Dario Ricci. Dario? Buonasera Roberta, siamo intorno alla mezz'ora di gioco su tutti i campi. Vi ricordo intanto lo 0-0 tra Sassuolo e Sampdoria, e poi le big sono tutte sullo 0-0 a partire da Juventus-Lazio, poi Roma-Torino, Genoa-Inter, ma 1-1 tra Palermo-Atalanta, 1-1 anche tra Udinese e Fiorentina, importantissimo in chiave salvezza l'1-0 del Frosinone sul Chievo, il gol di Giovani, ma Frosinone in 10 per l'espulsione di Ageti dopo appena 18 minuti, 0-0 tra Empoli e Verona a chiudere i risultati finora al 31°. Vi ricordo poi domani sera Milan-Carpi a chiudere la 34esima di Serie A. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiorniamo ulteriormente su tutte queste partite. Intanto stavo guardando i vostri messaggi al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e i whatsapp, e anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. La riflessione che vi chiedevo stasera è su questa sentenza definita shock del tribunale di Oslo, che ha detto che Breivik, autore della strage del 2011 in cui uccise 77 persone è stato trattato in carcere in modo inumano perché tenuto in isolamento per 5 anni, anche se ha praticamente lo spazio di 3 celle, ha un bel televisore, ha lo spazio per far ginnastica e anche tutta l'attrezzatura per videogiochi, e lui ha ritenuto che fosse stato trattato in modo inumano. Cosa ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto ringrazio Massimo che dice: oltre a ciao fratello bisogna dire qualche volta anche ciao sorella. Poi dice invece questo ascoltatore su WhatsApp: in merito al caso Breivik capisco e condivido in parte lo sgomento delle persone evidentemente, ma dobbiamo ricordare che la giustizia serve solo a rieducare il condannato e non a risarcire le vittime o i loro familiari. Se la magistratura norvegese e gli psichiatri hanno ritenuto che ci siano state delle violazioni di diritti umani nei confronti di questo criminale, probabilmente esse ostacolavano questo obiettivo. Così scrive Tonio, e vedo che sono varie le vostre posizioni rispetto a questo fatto. Per esempio c'è Giulio che dice: Norvegia, solito delirio sulla giustizia della sinistra al governo. Poi un altro messaggio: credo sia assurdo, se hai ucciso 77 persone, quei giudici probabilmente non avevano parenti tra le vittime, già aveva preso solo 21 anni che è il loro massimo, sì questa è la pena massima in Norvegia, 21 anni. Poi fa il saluto a braccio teso in tribunale: nessuno gli ha fatto niente, stiamo perdendo il senso del valore della vita umana. Giancarlo dice: la precisione scandinava nel dare applicazione alle leggi diventa ottusità, dicevano già i romani che il troppo diritto comporta negazione del diritto. Voi continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo un momento e cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi, il vostro ascolto attento qui a Effetto Notte con me. Stavo guardando ancora le vostre riflessioni appunto sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero 349-238-6666 a proposito di questo caso di cui parleremo tra poco, il caso appunto di Breivik, la sentenza norvegese. Giorgio da Verona scrive: un individuo che ha ucciso 70 persone, in realtà 77, vorrei sapere quali diritti può vantare. Un altro messaggio: beh, la sentenza norvegese dimostra che tutto il mondo e paese noi rilasciamo assassini e ladri di tutti i tipi, loro questo. Ancora, la Norvegia merita altri 100.000 Breivik, eccetera, chi insomma dice che è una sentenza assurda. In merito a Breivik, perdonare troppo a chi falla si fa un torto a chi non falla, riguarda la necessità di recuperare, sì, ma solo dove c'è volontà, cosa che in questo caso non vedo proprio, anzi c'è il palese rischio di reiterazione. Questo tra pagina Facebook e al 349-238-6666. Vi ricordo intanto, prima di cominciare col primo argomento, i fatti principali della giornata. Pensioni, è pronto l'invio da parte dell'INPS di 150.000 buste arancioni con la simulazione delle pensioni future, ne parleremo. Referendum, scontro tra la minoranza e la maggioranza del PD, Renzi dice si oppongono a tutto, Berlusconi pronto a lasciare Bertolaso a convergere sulla Meloni. Via libera della Commissione europea sulla flessibilità per la sicurezza in Europa. E poi il Tribunale di Oslo, sentenza shock, violati i diritti umani di Breivik in isolamento da 5 anni, si tratta di un trattamento inumano e degradante, dice la sentenza. New York, nelle primarie ieri in corona Hillary e Trump verso il match point ormai. E poi il riesame in Italia che annulla l'arresto per l'infermiera di Piombino accusata di aver ucciso 13 pazienti, ha già lasciato il carcere. E ancora l'antitrust europeo contro Google, falsa concorrenza. Occupiamoci allora della sentenza norvegese con il professor Francesco Cherubini, docente di diritto dell'Unione Europea e di Organizzazione Internazionale di Diritti Umani alla LUIS di Roma. Professor Cherubini, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, chiedo all'ascoltatrice e ascoltatore che si fossero messi in collegamento in questo momento in ascolto, vi ricordate appunto di Anders Breivik, l'autore delle stragi di Utøya e Oslo del 22 luglio 2011 in cui morirono 77 persone? Ebbene, come si dice, in prigione da qualche anno vince la causa contro lo Stato norvegese per violazione dei diritti umani. Secondo il Tribunale di Oslo, Breivik in isolamento da 5 anni subisce dei trattamenti inumani e degradanti. Poco importa, è stato detto che ha un tipo di isolamento regolamento dorato, nel senso che ha lo spazio di 3 celle, ha un bel televisore, può giocare coi videogame, fare ginnastica. Breivik, autore di queste stragi, aveva avviato un procedimento civile contro lo Stato norvegese, accusato appunto di aver violato i suoi diritti in prigione. È rinchiuso nel carcere di Skien, a circa 100 km a sud di Oslo, dove sta scontando una pena di 21 anni. A inizio marzo si era aperto questo processo, il suo legale aveva puntato il dito appunto su questo trattamento di 5 anni di isolamento. Poco è valso che i procuratori dello Stato hanno detto sì, ma noi lo teniamo così in un regime di sicurezza, il 37enne killer, perché abbiamo paura che crei magari una rete di estremisti all'interno del carcere. Quindi viene controllato, però ha spazio di libertà di muoversi appunto in questi spazi che vi dicevo prima. Il governo, tra l'altro, è stato condannato a pagare le spese legali al terrorista di 331.000 corone, circa $41.000. Professor Cherubini, naturalmente questa sentenza non solo è destinata a far discutere, sta già facendo discutere, ha diviso un po' il mondo. Lei che cosa ne pensa? Ma preliminarmente vi posso dire che insomma, prima di prendere una posizione bisognerebbe naturalmente leggere la sentenza della Corte Distrettuale di Oslo. In linea di massima, da quello che ho potuto leggere sulle agenzie di stampa, posso dire questo, che però naturalmente è una considerazione di carattere generale che faccio sulle norme che sono state richiamate. Le norme in questione sono l'articolo 3 della CEDU e l'articolo 8 della CEDU. L'articolo 8 non è stato considerato violato, almeno il contenuto dell'articolo 8, ma questo non è sorprendente, perché l'articolo 8 protegge la vita privata e familiare, però appresta, per così dire, una tutela di carattere relativo, quindi che può incontrare diverse eccezioni. L'articolo 3 si atteggia diversamente, perché da sempre la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma non solo questa naturalmente, ha affermato la natura assoluta dell'articolo 3, cioè questo significa che qualunque cosa abbia fatto l'individuo in questione, la sua dignità va rispettata sulla base dell'articolo 3. Quindi che 5 anni di isolamento sono troppi? No, allora qui arriviamo al merito della questione. Perché qui la Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha considerato che talune pratiche di per sé violino l'articolo 3, che quindi costituiscano trattamenti inumani e degradanti. Ci sono precedenti in tema di, che poi mi sembra quello centrale nel caso Breivik, di isolamento, e l'isolamento la Corte Europea dei diritti dell'uomo non l'ha considerato di per sé una violazione dell'articolo 3, ma naturalmente a seconda dei casi, a seconda cioè delle modalità, e particolarmente quando la possibilità di socializzare è azzerata in assoluto, allora lì la Corte ha ritenuto che una violazione dell'articolo 3 si potesse configurare. Quindi naturalmente bisognerebbe leggere le motivazioni della sentenza della Corte Distrettuale per poter dire qualcosa di più, cioè per poterla confrontare con gli standard riconosciuti, che sono in primo luogo appunto quelli che ci dice da tempo la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Professor Cherubini, fosse successo in Italia di uno che avesse ucciso 77 persone, come ha fatto Breivik, aveva fatto esplodere prima un ordigno nella zona dei palazzi governativi di Oslo, uccidendo 8 persone, ferendone 209, quindi bisogna vedere anche quei 209 come sono stati feriti. Poi si è spostato sull'isola di Utoja, dove era in corso un campo estivo di giovani del Partito Laburista, e lì ne ha uccisi 69 sparando a bruciapelo, 34 dei quali di età tra i 14 e i 17 anni. Che lei sappia, in Italia un profilo di killer di questo tipo sarebbe stato tenuto in isolamento 5 anni, sarebbe stato considerato un trattamento inumano? Ma l'Italia ha qualche precedente in tema di isolamento, e particolarmente di 41 bis. Per i mafiosi in genere, no? Per i delitti di mafia. Sì, esattamente. E lì la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha avuto l'atteggiamento che prima vi ho descritto, cioè non lo ha considerato in assoluto, questo l'ha fatto anche la nostra Corte Costituzionale peraltro, una violazione dei diritti fondamentali, ma naturalmente dipende dalle modalità. Quando ci si spinge troppo in là, qualunque cosa, ma ripeto, perché appunto quel divieto è di carattere assoluto, quindi va rispettato comunque, quando ci si spinge troppo in là, qualunque cosa abbia fatto l'individuo in questione, ovviamente questo costituisce una violazione, ed è una cosa con la quale bisogna fare i conti, cioè l'articolo 3 è uno dei pilastri dei diritti umani nell'ambito europeo, ma non soltanto nell'ambito europeo, e porta a certe condizioni, a queste conseguenze che mi rendo conto possono sembrare quasi paradossali per chi naturalmente ha calpestato. Beh, in effetti qualcuno dice ma i familiari di queste persone saranno d'accordo, cosa avranno pensato, però purtroppo volenti o nolenti, insomma, bisogna attenersi alla legge e questo evidentemente sì, ovviamente bisogna leggere poi appunto la sentenza, dicevo, e nei prossimi giorni magari qualcosa di più si saprà. Sì, la mia impressione, ma è un'impressione del tutto sommaria, è che leggendo e confrontando quello che ho letto sulla sentenza e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, forse la Corte distrettuale di Oslo è andata un po' più in là di quanto richiesto dagli standard previsti dall'articolo 3, ma già, naturalmente un po' la sensazione, la sentenza. Sì, però la sensazione c'è. Grazie professor Cherubini, grazie. Prego, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Adesso, mentre voi continuate a scrivere i vostri messaggi e le vostre riflessioni su questa vicenda, invece occupiamoci di cose molto non strane come le pensioni. No? Ogni tot a giorni alterni, e in certi giorni in particolare, torna a essere uno degli argomenti di primissimo piano, diciamo per lo più un tasto dolente. Non solo c'è il problema degli esodati che ancora non è stato del tutto risolto, non solo da varie parti si auspica da tempo l'eliminazione della famosa legge Fornero, qualcuno dice va eliminata, qualcun altro dice però ha salvato i conti pubblici italiani, eccetera. Non solo il tema delle pensioni è da sempre un sorvegliato speciale perché è una delle voci principali di spesa pubblica, ma ultimamente c'è stato anche l'ultimo in ordine cronologico presidente dell'INPS, Tito Boeri, che si fa sentire spesso su questo argomento con proposte e anche con allarmi, proposte che hanno a che fare per esempio con la flessibilità in uscita dei lavoratori vicini alla pensione, allarmi come quello di ieri secondo il quale c'è un rischio che i nati per esempio nell'80 possano andare in pensione non prima dei 75 anni, quindi mantenetevi in forma nel caso. Ne parliamo con Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Chicco. Buonasera, ciao. Fra l'altro, fra i rischi vari, anche leggevo un rapporto della UIL che dice, sempre su dati INPS, una donna su quattro lascia il lavoro dopo il primo figlio, quindi immaginiamo che pensione già bassa in genere le donne possono avere queste donne che lasciano il lavoro dopo il primo figlio. Comunque, il governo, ieri Padoan ha aperto un po', no? Ha detto si può fare un ragionamento complesso. Che ragionamento si può fare? Ma dunque il tema in discussione in questi giorni, a dire il vero il tema in discussione ormai da diversi mesi, fin dall'anno scorso, è quello di diciamo, trovare dei meccanismi che possano rendere la riforma Fornero meno rigida quanto a requisiti per il pensionamento, quindi età che aumenta in continuazione eccetera, però diciamo anche con una modalità che sia compatibile con la tenuta dei conti pubblici, perché tu prima ne facevi insomma brevemente accenno. Dobbiamo ricordare che la riforma a Fornero, che è una riforma che insomma più o meno non piace a nessuno eccetera, però è la riforma che ha consentito di risparmiare 80 miliardi di euro da qui al 2020, cioè da quando è stata fatta al 2020, cioè in 8 anni, quindi tantissimo, no? Poi qualcosa diciamo si è dovuto cedere perché sono state fatte delle salvaguardie che hanno consentito diciamo ai cosiddetti esodati di accedere al pensionamento con i vecchi requisiti e non con i nuovi. Quindi il tema attuale è: ma riusciamo a trovare un modo per consentire a chi se ne vuole andare un po' prima dei 66, 67, 68 anni di età che sono progressivamente previsti dalla Fornero, riusciamo a fargli andare un po' prima in pensione? Il tema è questo. Ovviamente la cosa si può fare, ma la cosa ha un costo, quindi bisogna capire come si riesce a combinare diciamo la giusta esigenza di non lasciare il lavoro troppo avanti con l'età, ma anche con quella di non diciamo andare ad alterare questo equilibrio faticosamente raggiunto anche dal punto di vista dei conti pubblici. Boeri ieri ha detto chi è nato dopo il 1980 rischia di lasciare il lavoro a 75 anni, forse ha esagerato un pochino, ma neanche tanto, perché io ho fatto insomma qualche calcolo e diciamo che se uno è nato nel 1980 più o meno lascerà quando avrà 69 anni e 8 o 9 mesi, quindi quasi 70 anni, per cui insomma non c'è andato tanto. Bisogna mantenersi molto in forma. Senti, invece mi sembra che qualcuno dice sono state ottimisti i calcoli all'interno di queste buste arancioni che ci arriveranno a breve, almeno 150.000 dovrebbero essere quasi in partenza, dove c'è dentro una simulazione di quella che sarà la pensione di ognuno. È vero, secondo te, che potrebbe essere un po' troppo al rialzo? Ma dunque, bisogna innanzitutto capire che cos'è questa busta arancione, cioè è un... Intanto sarà arancione? Ecco, questo è il primo quesito. Sì, sarà arancione, sì, sarà proprio arancione, avrà tutta la parte, diciamo, superiore color arancione con il logo dell'Inps. Cioè qui dentro, in queste comunicazioni, insomma, uno si troverà la simulazione dell'importo della pensione futura alla quale avrà diritto dopo, appunto, magari 30-35 anni, eccetera. Quindi, allora, siccome l'importo futuro della pensione dipende da una serie di variabili, infinita, no? Di variabili. Io te ne cito due o tre, sì, a caso, cioè il fatto che uno abbia una continuità lavorativa, cioè che non abbia dei periodi senza contributi, perché magari è un precario, non dei buchi, bravissimo. Dipende dalla dinamica della tua retribuzione, cioè la tua retribuzione cresce in modo costante oppure hai una carriera molto stabile, insomma dipende dall'andamento dell'economia, dipende se il PIL cresce la pensione si rivaluta in un certo modo, se non cresce la pensione non si rivaluta, dipende dall'inflazione, dipende addirittura anche, come abbiamo visto, dallo scenario demografico, perché da qui al futuro l'età per andare in pensione aumenterà in continuazione ogni 3-2 anni in base all'andamento della speranza di vita. Quindi più vivremo, quindi, più ci sarà speranza di vita, meno avremo speranza di pensione. Mi sembra di poter sintetizzare in questo senso. E non solo meno speranza di pensione, avremo anche la certezza di pensioni più basse. Molto bene, mi pare proprio uno scenario molto confortante. Tremendo. Grazie a te, Chico Padula, vice direttore del Sole 24. Ciao. Adesso, con queste buone notizie, prima di passare alle prossime, dopo questa breve pausa di creazione, ancora i vostri messaggi. Sandro al 349-238-6666. Queste persone che uccidono gratuitamente non hanno più alcun diritto nei confronti della società. L'unico opinabile diritto che potrebbero riservarsi è quello di una buona morte, dice Sandro. Nient'altro. Poi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Luciano dice: i diritti di chi ha ucciso. Uccidere una persona è una cosa grossa, gli levi tutto quello che ha, tutto quello che sperava di avere. Lui ha levato la speranza a 77 persone, isolamento a vita, la sua libertà è finita nel momento in cui ha tolto la vita agli altri. Ci sentiamo un momento. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte stiate ascoltando Effetto Notte, e con voi giustamente anche la giusta conduttrice Roberta Giordano. I vostri messaggi che continuano ad arrivare sulla sentenza norvegese relativa a Breivik. Stefano scrive, e potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666. Stefano: non sempre la giustizia è giusta, e se anche in Norvegia vale il principio che i giudici agiscono in nome e per conto dei cittadini norvegesi, mi chiedo cosa ne pensano i parenti delle vittime, gli amici degli amici, ma forse i giudici non importa, dice. Adesso ci occupiamo invece dell'emergenza immigrazione, che è un argomento immancabile questo, purtroppo, e prima vi ricordo però quali sono un po' tutte le notizie più importanti della giornata. Appunto, questa sentenza che viene dalla Norvegia, Breivik, l'autore delle stragi del 2011 a Utøya, dove morirono 77 persone, vince la causa contro lo Stato norvegese per violazione di diritti umani in carcere. Referendum costituzionale sulle firme PD diviso, Renzi dal Messico commenta: c'è chi si oppone a tutto. Pensioni, ne abbiamo appena parlato, è pronto l'invio di 150.000 buste arancioni con la simulazione della pensione futura. I sindacati al governo dicono basta annunci. Elezioni amministrative a Roma, Bertolaso verso il ritiro, e Berlusconi sarebbe pronto a convergere su Meloni. Le primarie negli Stati Uniti, New York ha incoronato Hillary e Trump. Morti in corsia, l'infermiera di Piombino torna in libertà dopo 21 giorni di carcere. L'antitrust europeo contro Google per abuso con Android. Allora, oggi sono arrivate purtroppo le prime conferme sul tragico naufragio nel Mediterraneo della scorsa settimana. Erano girate, vi ricordate, varie notizie arrivavano dall'Egitto, poi dalla Somalia. Oggi scrive il Guardian, quotidiano britannico, sul suo sito, citando testimonianze di alcuni sopravvissuti, che ci sarebbe stato un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 500 persone diretto verso l'Italia. I migranti sarebbero somali, sudanesi, etiopi ed egiziani e probabilmente vittime di un naufragio. Ancora non c'è la conferma assoluta, però insomma sembra sempre più attendibile. Quindi l'emergenza immigrazione con il bel tempo si moltiplica purtroppo. Abbiamo parlato in questi giorni molto dell'isola di Lesbo, che è la nuova Lampedusa in Grecia. C'è stato anche il Papa sabato scorso per portare la sua solidarietà, almeno un atto simbolico nei confronti dei migranti, del campo profughi di Domeni a confine tra Macedonia e Grecia, del muro che l'Austria sta tirando su al Brennero, dei vertici europei su vertici dove si cerca di capire cosa fare ma forse non si capisce mai veramente, del controverso accordo tra Unione Europea e Turchia e poi le varie proposte. L'Italia in questi giorni ha proposto questo Migration Compact che dovrebbe riscrivere i rapporti con i paesi d'origine, i paesi terzi, con finanziamenti, investimenti, canali di ingresso legali per chi ferma gli irregolari, la Germania che chiede un aumento delle tasse sulla benzina e l'ONU intanto che dice, soprattutto relativamente a questo ormai quasi certo naufragio, serve un approccio più coordinato da parte dei paesi europei. È un altro tragico incidente che necessita che gli stati membri e la comunità internazionale affrontino la questione. Sì, ma come sta venendo affrontata, viene affrontata questa questione? Lo chiedo a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Magri. Buonasera a lei. Questa è la questione di immigrazione, lo si sa da molto tempo, è una delle sfide più importanti, se non da diverso tempo la più importante, no? Sul tavolo dell'Europa. Di tutto quello che sta avvenendo, di queste proposte, possiamo dire che qualcosa di concreto può forse avvenire o come la vede Magri? Ma una cosa certa è che un accordo controverso e per il quale il mio cuore non batte particolarmente, quello con la Turchia, in qualche modo sta funzionando ed è un tappo, nel senso che già l'annuncio dell'accordo ha ridotto l'accordo che prevede che tutte le persone che arrivano in Grecia vengano rimandate in Turchia e dalla Turchia rimpatriate nei paesi, mentre per i siriani c'è lo scambio uno a uno con l'Europa. Questo accordo, già l'annuncio, ha rallentato l'afflusso in Grecia, che è calato in queste settimane. E poi, in effetti, una parte delle persone arrivate in Grecia sono state già rimandate in Turchia, 30%, 25%, sta funzionando inaspettatamente il meccanismo di restituzione di siriani, riallocazione di siriani all'Europa. Una volta identificati, mandati direttamente in Europa, sono 100 i siriani che sono andati dalla Grecia alla Turchia e sono 100 i siriani che dalla Turchia sono stati mandati nei paesi europei, in Finlandia, in Germania e in Svezia. Qualcosa di meno positivo, da quanto abbiamo visto anche per i morti di ieri, succede sul fronte libico, che ci coinvolge direttamente e che non coinvolge i siriani come persone che arrivano, ma coinvolge persone che vengono dall'Africa. Questo barcone partiva dalla Libia. Non partiva dalla Libia, dalle parti di Tripoli, le zone più monitorate dalle pattuglie europee, ma dalla zona di Tobruk, da quanto dato sapere, una rotta insolita, più lunga, e quindi dove non c'erano navi europee a pattugliare e a soccorrere. Quindi questo è un elemento delicato. Il terzo elemento delicato, domani c'è un vertice a Salonicco dei ministri degli interni di Grecia, Albania, Macedonia e Italia, perché si comincia a studiare il rischio della rotta. Di cambiare rotte, no? Che possono cambiare rotte. Che direzioni potrebbero prendere dopo che si blocca da una parte, si blocca il Brennero, la rotta Albania e Montenegro. Albania e Montenegro, non a caso c'è l'Albania presente domani. Per ora non ci sono notizie specifiche di barconi in partenza, però il commissario Varoufakis oggi ha detto che ci sono dei primi segnali, vuol dire che ci sono dei trafficanti, questi trafficanti di esseri umani che cominciano a essere visti o presi e quindi dobbiamo essere pronti. È molto positivo che in questo caso ci sia una riunione dei ministri degli interni alle prime avvisaglie. Noi siamo abituati, lo diceva lei nell'introduzione prima, a questi vertici su vertici che celebrano i fallimenti, e qui c'è perlomeno la sensazione che ci stia guardando con attenzione alla vicenda. Però speriamo, insomma, staremo a vedere domani che cosa ne esce di concreto, anche se davvero sembra doversi muovere su tanti piani contemporaneamente, avendo perso anche tanto tempo, è sempre più complesso. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ancora i vostri messaggi tra pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 sulla sentenza norvegese. Nicoletta dice: dopo aver ucciso 77 esseri umani, ora Breivik rivendica il diritto di avere contatti con gli umani. Adesso però tra poco cambieremo argomento, vi ricordo quali sono alcune delle notizie più importanti. Per le pensioni è pronto l'invio di 150.000 buste arancioni, abbiamo parlato di tutte le proposte degli allarmi di questi giorni. Referendum scontro tra minoranza e maggioranza PD, Renzi dice si oppongono a tutto, Berlusconi intanto sarebbe pronto a lasciare Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma e convergere su Meloni. Via libera della Commissione europea sulla flessibilità per le misure di sicurezza e poi Tribunale di Oslo, questa sentenza shock, violati i diritti umani di Breivik. Europa 24 notte. In questo spazio europeo parliamo dell'autorità garante per la concorrenza europea che ha preso di mira Google. Il perché ce lo spiega il nostro Enrico Pagliarini, che vi ricordo ogni venerdì dopo Effetto Notte col suo 2024, la tecnologia a portata di mano. Enrico. Buonasera, buonasera. Non è la prima volta che Google... Esatto, anzi, attualmente è in atto una seconda procedura nei confronti di Google da parte dell'antitrust europeo, della Commissione europea, che riguarda proprio il motore di ricerca, alcuni problemi che la Commissione europea ritiene di dover risolvere. Ma questa è un'altra questione che non è ancora stata risolta. Adesso se ne apre una nuova. Dopo un anno di indagine, la Commissione europea ha indagato sul rapporto che c'è tra Google, che produce e sviluppa il sistema operativo Android, e i produttori di smartphone. Android per i vari dispositivi, per i cellulari. Esattamente, per gli smartphone. No? È il sistema operativo più diffuso. In Italia siamo ad una quota di mercato del 78%, in generale in Europa stiamo parlando di quote di mercato del genere. Ci sono addirittura paesi come la Spagna che stanno attorno al 90%, quindi sicuramente c'è una posizione dominante. Bisognerà capire se c'è stato anche abuso di questa posizione dominante. Quindi c'è un problema di concorrenza a questo punto. Sì, allora sostanzialmente che cosa dice qual è l'accusa della Commissione europea nei confronti di Google? Nel momento in cui i produttori di smartphone scelgono di installare sullo smartphone il Google Play Store, che è il negozio dove tu vai a scaricare le applicazioni, Google ti obbliga anche ad installare, quindi a inserire all'interno dello smartphone tutti gli altri servizi, un po' come fosse un pacchetto unico. Non puoi prendere solo una parte di questi servizi, quindi solo il negozio, ma ti devi prendere tutto il resto. Tutto il resto che cos'è? In particolare e in primis la ricerca, quindi l'applicazione che collega il motore Google di ricerca. Esattamente. Poi anche, che ne so, il browser, quindi il programmino per navigare in internet, tutti gli altri servizi come la Gmail, la musica, YouTube, dove vedi video. Sono una dozzina di applicazioni che tu devi come produttore installare tutte assieme. Allora la Commissione dice tu ti fai forza della grande diffusione di Android per consolidare e addirittura aumentare il potere che tu hai nel mondo della ricerca. Perché ovviamente stiamo parlando di tantissimi smartphone, e se tutti questi smartphone hanno come motore di ricerca preimpostato, preinstallato, predefinito Google, ovviamente chiaro, tutti i consumatori utilizzeranno questo. Quindi la Commissione dice è molto difficile, se non impossibile, per i concorrenti entrare in questo mercato. Vedremo. Google si difende, dice: i nostri accordi con i partner sono tutti fatti su base volontaria. Però certo, l'accusa è molto chiara, e poi vedremo quale sarà la difesa. Allora diciamo che rischia una multa da oltre 7 miliardi di dollari, però stiamo parlando di un'indagine che andrà avanti sicuramente anni, una cosa molto complessa, molto complicata. Poi bisognerà vedere che cosa risponderà. Oggi Google ha dato una risposta ufficiosa. Ha detto che vuole collaborare, sì, nel caso. Non ha dato ancora una risposta dettagliata e inviata alla Commissione Europea. Vedremo come andrà a finire. Sicuramente una presa di posizione importante per il nostro mercato nei confronti di questa azienda molto, molto grande. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie. Mi raccomando, poi lo ritrovate 2024 venerdì alle 22. Ciao, ciao Enrico. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.